invece? Non senti che abbiamo una voce, anche noi, ma no, ma dobbiamo crescere. E invece. Siamo cresciuti. Purtroppo. Io ho 59 anni. Ormai. Chiedo asilo. Allora, K, prendi nota che oggi è il 3 di ottobre, quindi un saluto a tutti gli amici tedeschi che ci seguono. Sai quanti? Dai, qualcuno sì. Perché poi bisogna salutarli? Perché oggi è il giorno dell'unificazione tedesca, 3 ottobre 1990. Ah, vive, per l'occasione. Allora, Drago, intoniamo l'inno nazionale tedesco, che sì, tutti lo conoscono, Parker, e obblighiamo tutti i tedeschi all'ascolto a scattare in piedi. Hop! Sitz, no, Platz, no, magari sono in macchina, Stratz, vabbè, sentono l'inno, cantare insieme a noi. Allora, pronti? Via. Vai. Aspettiamo con questo. Über alles in der Welt, wenn es stets zum Schutz und Trotze brüderlich zu basta. Ma basta. Traduci, Germania, dai. Germania al di sopra di tutto, al di sopra di tutto nel mondo, perché sia per protezione e difesa si riunisca fraternamente dalla Mosa fino alla Memel, dall'Adige fino al Belt. Germania, Germania al di sopra di tutto, al di sopra di tutto nel mondo. Sì, ma non ho capito, dice che la Germania comincia dall'Adige. Sì, der Etsch e l'Adige Etsch. Forse è il caso di dire che in realtà Etsch. Il 3 ottobre oggi si festeggia l'unità tedesca, ma relativa ai territori del dopo seconda guerra mondiale. È l'anniversario dell'unificazione tra la DDR e la BRD, cioè tra Germania Est e Germania Ovest. Quindi stiamo tranquilli, cioè l'Adige scorre ancora tutto in Italia. Penso di sì, no? Dalla alta Val Venosta a Sant'Anna di Chioggia. Sì, per adesso sì, poi vediamo cosa decide Draghi. Draghi. Sì, dipende tutto da lui in Europa, magari. Ci sono i boom dei BTP che vanno su. Mancano 79 giorni alla fine del mondo. 79 giorni alla fine del mondo, ma anche pochissimo manca la ricreazione. Sì, quindi meno male, è un bel momento, male, Drago. Devo andare in bagno. E aspetti la ricreazione. Non posso mollare tutto, andare adesso, no? Perché dipende. Dipende da cosa? Dipende da quanto ti scappa. Mi scappa abbastanza. Abbastanza quanto? Molto. E allora vai. Ma vado dopo, dai. Ma vai adesso che non si sa mai, alla tua età, Drago. Ma la mia età, che senso? Sai, il corpo non funziona più come quando si hanno 20 anni. Capito, dai. Ma riesco ancora a tenere, non preoccuparti. Sì, ma intanto scusa, tra poco suona la ricreazione, no? Però oggi abbiamo un appuntamento col bambino Alberto. Ah già. Quindi vai adesso, no? Vado adesso. E ora, bambini, ricreazione. No, ma proprio adesso. Sì, ti tocca adesso. Ma cosa c'è? No, niente. Drago, c'ha il problema che si, di solito invece hai tu, che dopo incroci il bidello nel corridoio. Mi scappa. Sì, mi scappa. Allora? Mi scappa molto, sì. E vai, no? Vado. No, non vado, vado dopo, dai. Sono qui, devo andare via. Cioè, sto qui 10 minuti in voce tutto il giorno. Vabbè, allora via? La tengo, va bene, infatti la tengo. Dai, bambino Alberto, allora eccoci qua. Sì, però non è che devi correre perché... Sì, dai, in fretta. Allora, sei sempre fissato con Tex Milanese, i fumetti, i sogni. Vabbè, dai, ok, dai. Ansioso, cavolo, no? Sei solo allora, che ti scappa, non è che... Comunque, sì che va avanti la Tex Milanese. Sì. Solo che oggi non ho sogni di raccontarti, perché stanotte ho passato la notte in bianco. Come? Sì, mio padre aveva il mal di denti. Ah, vabbè, lui aveva mal di denti e tu non hai dormito, non capisco tanto la... Vabbè, ma lui urlava come un lupo, la lupo nella tagliola, cioè una cosa straziante. Ma quando capita sì, è povero, ma poveri anche noi. Ah, mia madre era già appesa alla tromba delle scale con la sciarpa. L'abbiamo recuperata all'ultimo momento. Perché? Quando mio padre, la gendianata, sì, è venuto in mente che aveva il numero di una specie di dottore per delle emergenze, no? Una specie di dottore o un dottore? Uno che cura, no? È un amico del portiere, no? Sì. che l'ha conosciuto in guerra. In guerra? Ma di quanti anni ha? Non lo so, e questo dice. Vabbè, in guerra. Comunque, arriva questo qui, no? Uno un po' con i capelli tipo, cioè capelli biondi, un po' tipo Gesù, no? Gesù. Però con una giacca scamosciata, con le frange ai braccia, no? Sì, sì. E questo qui è il dottore, sarà stato. Vabbè, e questo qui è arrivato alle 3:30 di notte, no? E questo qui è il dottore omeopata, cosa usa prodotti naturali, no? Sì. Capito? Quindi ha dato questa pozione, mio padre. Sì. E tu vai tranquillo, adesso 10 minuti e ti passa tutto. Faccio l'iniezione. Ah, iniezione. Quindi radici, estratti, roba seria, roba da studiosi. Questo qui magari non aveva l'aspetto, ma. Quindi mio padre, sarà effetto placebo inizialmente, ha cominciato. Ma sì, magari. Poi a un certo punto è cominciato un po' a cambiare umore, no, mio padre? Sentivo un po' più sollevato. E voi siete tornati a dormire. Era quasi euforico, contentissimo. E no, adesso era esageratamente euforico, quindi non si riusciva a dormire. Perché aveva voglia di parlare. Non smetteva più, La voce tutta rauca praticamente parlava. E che quando lui era giovane, che noi dobbiamo sapere, perché lui, il PC, la FGC, Psiu, Peplup, poi dopo la scissione, e poi l'EBR, e prima linea. Cioè, hai capito? Tutto così. Quando comincia così? Quando comincia così? Ci sono dei medicinali attuali che magari danno un effetto, capito, collaterale. Quindi è partito, no, basta, allora non finiva più. Dico, allora, papà, qui sono 5:30, mal di denti, pare proprio che tu non ce l'abbia più. Quindi, tipo, facciamo una cosa che andiamo a dormire, no? Un'idea. Sì. E lui, ma che dormire? Siamo una famiglia, la vita è fatta per stare insieme. È la famiglia, e voi due dovete capire che... Era strafatto. Sì, era strafatto. No, niente. No, era passato il mal di denti. No, ma diciamo che il tipo che è venuto lì non è che fosse proprio un dottore. Quello con la giacca. È l'amico del portiere, adesso è mica uno qualsiasi. Non era un dottore, era un pusher. Cosa vuol dire un pusher? Niente, no, ma un medico tipo CSI, cioè una roba... Niente, sono robe che quando guarda avrai mal di denti tu da grande. Perché chiamerai Bologna a tutti, vedrai che capirà. Io intanto adesso, se posso, vado via perché devo fare quella roba. No? È finita. Vabbè, ma che roba deve fare? Aiuto, deve andare in bagno. Ma quando fa così, sai cos'è? Dicono che gli scappa la pipì. In realtà, poi devono fare quella grossa. Sì, vabbè, ma a parte questo, non è che hai un po' di quella pozione naturale? Quella del mio papà, dei mal di denti, è mal di denti, c'è una carica. Mi sta cominciando a fare. Le chiedo, guarda che c'ho, mi chiedo a mio papà se ti do il numero di telefono. Sì, oppure fai tu e poi domani. Cioè, chi ci si mette d'accordo? E ora, bambini, e tutti a casa. Cappa, alla fine Marchionne cosa ha detto a Monti? Perché Monti gli avrà detto Fiat Italia. Per carità, Non sento. Intanto, altrove... Risponde la segreteria telefonica dell'asilo Stoppani. L'asilo è chiuso fino a domani. Fa anche rima. Lasciate un messaggio dopo il beep. Pronto, signor. Pronto. È Tamanolito. Pronto, signor, no, il signor Assange tiene in diga schione e bagna cauda, aitatemi, signor, vi prego, pronto, rispondite.